chi ha paura del passato remoto. Cosa ci fanno le galline allo zoo? Le parolacce si possono insaponare? Ma soprattutto, quante storie possono stare in tasca? Radio Città Fujiko presenta Storiette Tascabili. Massimo Vitali legge Luigi Malerba. Lo zio all'inferno. Certi bambini si vergognano dei loro parenti perché li trovano brutti, sporchi, noiosi e cattivi. Quando i parenti muoiono, i bambini se li dimenticano e non si vergognano più. Tonino, invece, si vergognò dello zio Aristogitone solo dopo che era morto. Aristogitone era un tipo stravagante e divertente. Al posto della cravatta portava un fazzoletto nero. Fumava due sigarette alla volta, mangiava i calendari con i santi ed era capace di bere un bicchiere di vino rosso tirandolo su col naso. La zia si lamentava perché spesso non tornava a casa a dormire e qualche volta scompariva per una settimana e non c'era modo di sapere dove fosse stato. Tonino aveva sentito dire che lo zio era un anarchico, ma credeva che questa parola volesse dire un tipo strano e un po' buffo, come appunto era lo zio. Quando Aristogitone morì e raccontarono che in punto di morte non aveva voluto farsi avvicinare dal prete, Tonino incominciò a preoccuparsi. Così, senza i sacramenti, diceva la zia che era donna di chiesa, si era portato dietro tutti i suoi peccati e siccome erano tanti, sicuramente era finito dritto dritto all'inferno. Tonino si informò dell'inferno e le notizie che riuscì a raccogliere erano tutte molto brutte. L'inferno, dicevano, è un posto dove la gente viene messa a cuocere nelle fiamme. Altri raccontavano che i dannati venivano messi a gelare dentro al ghiaccio. Altri ancora dicevano che i dannati stavano immersi nella merda fino al collo. Questo lago pieno di merda fece molta impressione a Tonino, che incominciò a vergognarsi di avere uno zio all'inferno, perché da tutto quello che aveva sentito dire, per forza doveva essere andato a finire in quel posto orribile. Avere uno zio all'inferno era una cosa a cui Tonino non sapeva adattarsi in nessun modo. Se qualcuno nominava lo zio morto, e questo succedeva abbastanza spesso, Tonino diventava tutto rosso in faccia per la vergogna e poi andava a nascondersi nella sua cameretta e piangeva. E quando camminava per la strada aveva l'impressione che tutti lo guardassero come si guarda uno zoppo, un gobbo o chi ha un difetto fisico molto vergognoso. Tonino avrebbe preferito essere zoppo piuttosto che avere uno zio all'inferno. Ma che cosa poteva fare? Dal purgatorio si può uscire, con molta fatica e molte preghiere, ma dall'inferno pare che sia quasi impossibile scappare. Tonino allora decise che da grande, invece di fare lo spazzino come volevano i suoi genitori, sarebbe diventato anarchico anche lui, come lo zio Aristogitone, e avrebbe fatto tante cose buffe e pazze per andare all'inferno e tentare di tirarlo fuori dalla merda. Se proprio non ci fosse riuscito, sarebbe rimasto lì con lui a fumare due sigarette alla volta e a mangiare i calendari con i santi. Il vino rosso con il naso invece non avrebbe potuto berlo, perché laggiù pare che i dannati devono sempre tenere il naso tappato per non sentire i cattivi odori.